Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suardi in redazione, Carmelo Lauricelli in regia, e subito per voi una comunicazione di servizio. Se volete, da venerdì 9 ottobre, visto che molti ce lo chiedono, da venerdì 9 ottobre ricominciamo a parlare assiduamente di basket con Palla Spicchi, nell'imminenza di un campionato di Serie A che appunto inizia l'11. Per adesso a Tempo di Sport del venerdì rimane generalista, si occupa quindi principalmente della cronaca che non può che riportarci ieri sera a Marassi, dove abbiamo visto un magnifico primo tempo, soprattutto primo tempo, un primo tempo che ha detto che la Juventus è una cosa seria, che il Genoa può anche sbandare di tanto in tanto, forse perché va in debito d'ossigeno, ma secondo me correrà fino in fondo con le migliori per l'Europa che conta, cioè quella della Champions League. Partiamo dalle dichiarazioni del dopo gara, del dopo match, Gasperini. Davanti sono veramente forti, soprattutto sia tecnicamente che anche fisicamente. Noi soprattutto all'inizio davamo molti centimetri a loro, poi nel finale ho cercato di alzare un po' la squadra con Crespo, con Cargià, con Papa, però tenevo chiaro che tenevamo molto questi calci piazzati. Forse abbiamo difesi bene tante volte, nel finale siamo stati un po' fermi in quell'occasione. A noi ci rimane il rammarico di esserci visti sfuggire la vittoria a pochi minuti alla fine, però per il resto credo, insomma, io devo fare veramente i complimenti a tutti i miei giocatori perché hanno dato veramente il massimo. Effettivamente anche il primo tempo Mauro ha colpito due palle, una messa alta e un'altra di poco, insomma, si è aggraziato un po', e quindi, però alla base, insomma, non è facile contenerli perché noi cercavamo di tenere i giocatori più alti nelle zone nevralgiche dell'area e comunque non è facile neanche con i difensori contrastarli. 800 24 00 24, numero verde per voi per commentare, per intervenire. Ferrara. Chiaro che non c'è fuorigioco lì, quindi e dispiace perché subito dopo abbiamo preso il gol. Capisci come le partite possono cambiare su questi episodi. Poi ce n'è stato ancora un altro e poi per fortuna siamo riusciti a pareggiare. Chiaramente siamo delusi, è inutile dirlo perché la prestazione è stata... Io alleno da poco, però in queste 7 partite o giù di lì è stata la partita in cui ho visto la Juventus giocare veramente alla grande, ma veramente molto bene. Oggi la Juve avrebbe meritato la vittoria, non è stato così, però insomma il risultato, seppur negativo, ci fa convincere ancora di più che la strada è quella giusta, la voglia è quella giusta, l'attenzione è stata quella giusta. È strano, è tutto strano, perché domenica scorsa con il Livorno Gigi ha fatto 3 o 4 parate decisive e abbiamo subito. Oggi noi abbiamo fatto una grande partita contro un Genoa che comunque in casa crea diversi problemi, che gioca molto bene, e oggi credo che la Juventus sia stata assolutamente superiore e su due traversoni abbiamo preso 2 gol, quindi come strano, come comunque la partita vive su questi episodi. Con un pizzico di esperienza in più forse avrei potuto fare qualche cosa in più per vincere la partita. In questa frase sta tutta l'ironia napoletana di Ciro Ferrara. Io saluto e ringrazio Roberto Perrone, inviato del Corriere della Sera, scrittore e genoano. Ciao Roberto, grazie. Buongiorno, ciao. Ciao, senti, Ferrara molto arrabbiato e deluso per il risultato, credo che questo vada interpretato come un bel segnale per la gente juventina. Sicuramente la Juve quest'anno è molto diversa, non vorrei essere accusato di trombonismo se mi cito, ma come ho scritto oggi, la Juve dell'anno scorso avrebbe perso come ha perso, e invece quest'anno ha pareggiato ed è pure giustamente delusa per questo pareggio, anche se io sinceramente credo che il pareggio sia stato il risultato più giusto, perché anche Genoa ci ha messo del suo, è una squadra, come ha detto Ferrara, che sa mettere in difficoltà chiunque. Alla fine c'è quel balla, quel gol annullato, però il risultato sommato è giusto. Però una Juve di cui sentiremo molto parlare, andrà a braccetto col l'Inter fino in fondo. Sì, quel gol annullato da cui Ferrara è subito partito, non parlerei però di un errore clamoroso della terna. Se errore c'è stato e c'è stato, insomma, fa il paio con quello dello stesso Iaquinta su quella magnifica palla di Marchisio in profondità, siamo lì. Infatti, diciamo così, che come diceva il mitico Eraldo Pizzo, riferendosi alla moto, gli arbitri bisogna metterli in condizione di non nuocere. E se via Quinta fa suo, parlavamo di un'altra partita, insomma. Comunque devo dire, su tre situazioni molto difficili, ne ha prese due su tre, insomma, è una buona. Perché su tre gol annullarne uno, concederne un altro, questi veri, cioè questi che decisione giusta, sbagliarne una, mi sembra che nell'arco, purtroppo c'è un errore grave, però nell'arco di una prestazione, specialmente con situazioni come queste, sia una media, insomma, che ci può stare, un errore che non è anche il gioco di 8 metri, insomma. Certo, un fuorigioco che visto e rivisto 7 volte la moviola, ancora non l'hai capito. Poi vedi che è in linea, però insomma molto molto difficile. No, ma infatti dico questo punto, pensate un attimo a questo, cioè non è il fuorigioco con un'azione lenta da posizione, è stata una roba velocissima, su punizione, insomma, con i giocatori che si spostano un minuto qui, un attimo sono qui, un attimo sono più indietro. Sì. Adesso, cioè, è chiaro che uno, cioè, ragionando da chi ha subito l'ingiustizia, chiaramente è tutto un altro discorso, però ecco, io credo che se comunque tutti facessimo un discorso un po' più sereno sugli errori, forse sarebbe meglio, insomma, cominciare fin da subito a considerarli come errori, forse è meglio, ecco. Non c'è dubbio su questo. Quello che dico io è questo, non è che per esempio gli inglesi non si arrabbino, pensate a quello che è successo al Manchester nel derby. Sì. Di Manchester l'allenatore di Hughes, l'allenatore del Manchester City, protestato vivacemente per il recupero, eccetera. Ecco, però non è che loro non si arrabbiano, poi però finiscono lì, ecco. Noi dovremmo imparare a contenere tutto, diciamo, nello spazio della domenica, non portarci dietro le cose. Idea, ecco. Sì, no, ma è esattamente anche la mia, questo che ci manca. Una volta finita la partita, una volta fatti i necessari commenti in sala stampa, basta, finita lì e si guarda avanti, anche perché le partite si giocano a rotta di collo in questo periodo. No, l'ho visto anche nelle cose di ieri sera, cioè questa roba, non so, sarà che a me mi annoia, lo dico sinceramente, mi annoia profondamente, ma il fatto che allora Gasperini ha fatto un'intervista in cui parla di allenatori che non hanno fatto la gavetta, poi allora Ferrara fa la cosa e poi Gasperini e poi c'è, la noia mortale, cioè, scusate, magari agli ascoltatori, no, cioè, interessa tantissimo, a me veramente mi interessa questo, che poi succede in tutti gli ambiti del nostro cioè dalla politica all'economia, cioè allo spettacolo, cioè, tu hai detto questo, io ho detto quello, sono d'accordissimo con te. Senti, invece vorrei parlare, ma lo facciamo subito dopo il traffico, vorrei parlare un attimo di Genoa, perché tra le cose che scrivi oggi, insomma, sono d'accordo sul fatto, ma l'ho detto prima, ieri sera l'altra notizia che c'è stata è che questo Genoa comunque non è quello di Verona, non può andare in debito d'ossigeno, no, come succede, però si conferma una squadra che, siccome di strada ne farà parecchia. Tempo di sport. Nei messaggi vedo che siamo ancora molto distanti da quanto si diceva poco fa con Roberto Perrone. Ad esempio, il pareggio era giusto, ma due gol sono stati annullati ed erano regolari, scrive uno. Poi un altro, ma che bei discorsi, perché non li fate anche quando gli errori sono a favore della Juve? Vabbè, Roberto Perrone invece, Genoa ieri sera ha confermato, appunto, può andare in debito d'ossigeno perché gli impegni sono tanti e la squadra è corta, come ha notato Gasperini, però insomma, non, il Genoa è una cosa seria e resta una cosa seria, Verona o non Verona. Ha un impianto di gioco collaudato, una capacità di corsa e di velocizzazione straordinaria, infatti la Juve ieri ha fatto una grande partita, perché si è comportata ha rispettato il Genoa, cioè ha fatto la partita sul Genoa cercando di annullare le sue capacità. L'unico dato rispetto al passato che mi sembra leggermente inferiore è il centravanti per ora. Sì. Locari viene da un infortunio, è ancora un giocatore un po' che deve trovare il suo ruolo in questa squadra, però questa squadra ha avuto per 2 anni di serie, ha cambiato tutti gli anni il centravanti, che non è una cosa facile, è la prima punta, e per 2 anni ha trovato 2 giocatori che gli hanno fatto più di 20 gol, Io non so se Flocca gli fa più di 20 gol, hai capito? Sì, però, però il vice non è male, Hernán Crespo. Il vice non è male, infatti questo è ancora un segno della lungimiranza di questa società, perché riuscire a prendere Crespo, convincerlo e metterlo in una inserirlo in un sistema anche di preparazione che lo fa rendere a questi livelli è veramente veramente segno di una grande società, perché questa è una grande società, ecco. Per chi conosceva il vecchio Grifo, il suo presapochismo, insomma, è veramente una scoperta. Sei d'accordo se dico che il Genoa è la più britannica delle squadre italiane, al di là della denominazione Football and Cricket Club? Sicuramente. Come modo di giocare, come modo di giocare adesso, questo Genoa? Gioca veramente in un modo molto inglese. Gioca anche in un modo molto inglese, che in Italia rischia di essere molto penalizzato, perché è un gioco molto aggressivo, con interventi molto, diciamo, a cercare la palla, però a volte si becca anche l'uomo. Sì, quindi sì, un tipo di gioco che secondo me in Inghilterra porterebbe molti meno fischi di quelli che invece subisce il Genoa in Italia, ecco. Roberto, per chiudere, ieri sera c'era Lippi in tribuna, buone indicazioni per lui. Marchisio, secondo tempo impressionante di questo ragazzino, cui forse manca solo un pizzico di fisico ancora. Io spero che Lippi non abbia visto Marchisio, perché Marchisio, cioè, se Lippi deve venire Marchisio siamo preoccupati, perché non è che, cioè, se mi si muove per vedere Marchisio, vabbè, alla fine. Mesto, spero... Bocchetti e Sculli possono essere materiale su cui riflettere invece. Soprattutto loro, ma soprattutto un giocatore che purtroppo non gode di una buona stampa, che, anzi no, non è che non gode di buona stampa, non gode di stampa purtroppo. Perché uno molto riservato, che si fa i fatti suoi, che lo puoi trovare che si mangia un panino da solo in un autogrill, cioè, che è Marco Rossi. Sì. Se l'Italia deve giocare con Zambrotta ai mondiali, allora tanto vale Marco Rossi, è molto più forte. Sono d'accordo, il capitano. Beh, è il cuore di questo Genoa, no? È un giocatore straordinario. Guarda, veramente è vero, nella vita si paga, nel calcio spesso si paga la mancanza di promozione giornalistica o di discussione, insomma. Cioè, Marco Rossi come paga questo? È un giocatore straordinario per il tifoso del Genoa, per l'attaccamento che ha dimostrato in questa maglia, perché ha attraversato tutte le stagioni, quelle più negative, la Serie C, eccetera. Era uno dei pochi che è sceso fino in Serie C. Sì. Ma tecnicamente, secondo me, è un giocatore veramente molto importante, che sta giocando una grandissima stagione, una stagione che dura da più stagioni. Quindi io, se fossi stato lì, ieri sera avrei guardato lui, ecco, più che Marchisio. Grazie Roberto, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a tutti. A prestissimo, grazie a Roberto Perrone. Passiamo agli ascoltatori. Alberto, provincia di Cuneo, Salvatore da Vicenza, poi ce n'era anche un altro che è caduta la linea, ma vedremo di recuperarla. 800 24 00 24, numero verde. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono un fedelissimo, la fede juventina ancora. Sì. Comunque ieri sera mi sono divertito come un pazzo. Ho sì. Visto la più bella partita di quest'anno, più di quelle di Coppa, Inter, non Inter, una partita fantastica, soprattutto perché c'erano in squadra due squadre fantastiche. Ho visto una grande Juve e un altrettanto grande Genoa. Soprattutto nel primo tempo, io ho visto un magnifico tempo... magnifico primo tempo, secondo tempo un po' più nervosetto, un po' più... però insomma falloso. Ci sta una partita, sì, una sì. Partita comunque abbastanza averne. Marzia, corretta. Averne di partite così. E io sinceramente trovo che sono, tra virgolette, più arrabbiato con gli attaccanti juventini, non tanto con il guardialine. Un errore così ci starà sempre ed è inutile. Ma sono d'accordo, Alberto, anche se ho un miliardo di messaggi. E no, signori, l'annullamento di un gol non è un errore da poco, da qualunque parte esso sia, scrive Sergio, ma ce ne sono mille di messaggi così. Errore è stato, però ripeto, non un errore colossale, perché francamente era un fuorigioco molto difficile da cogliere. E comunque mi pare che, se parliamo di errori umani, quello di Iaquinta solo davanti al portiere su quella palla magnifica tagliata da Marchisio vale grosso modo quello di Saccani, se parliamo di errori umani, no? Perché giustamente, come si diceva, è meglio evitare che gli arbitri nuociano, no? E quindi sì. È meglio che ci pensino gli attaccanti. Ecco, un piccolo appunto sulla trasmissione, me lo lascia fare. Prego. date meno fiato alle stupidaggini, perché voi già lo fate molto meno di altri, anzi quasi assente, però ogni tanto. Di che tipo? Questi commenti, l'arbitro ha fatto dei danni, eccetera. Purtroppo, vede, ma purtroppo. Bisogna evitare. Ma purtroppo questa è una comunità nell'aria, no? Quindi fa un gran piacere avere questo contatto diretto, con, quasi fisico, con gli ascoltatori, e poi nell'Agorà vale tutto. Salvatore, Vicenza, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io volevo fare un appunto, si parla tanto di violenza negli stadi, tessere il tifoso, no? Sì. Rimanendo comunque la partita di ieri, Genova. Io seguo le partite, per esempio ieri Genova, Juventus, ho seguito la telecronaca del tifoso con la tessera, insomma, Mediaset Premium. Beh, non ti dico che ha ascoltato quando è stato annullato il gol la Juve, cosa ha detto il telecronista quello là, cioè ha izzato proprio alla violenza all'ultimo grado. È stato 20 minuti finché la Juve non ha pareggiato, sì, a dire tutto sull'arbitro, scandaloso. Ma come si fa a fare? È vero che è la telecronaca del tifoso, ma io ascolto anche la telecronaca del tifoso della Lazio e della Roma, insomma, sono più pagati, anche se hanno subiscono qualche torto. Ecco, volevo Salvatore, ma magari cambi lo so, ma di una volta io lo seguo per un fatto folkloristico, no? Però ieri proprio sono rimasto proprio con la bocca aperta quando ho sentito quello della Juve. Comunque grazie A lei, Salvatore. Davide, La Spezia, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo fare una considerazione sul Milan. Prego. Le chiedo questo: cosa ne pensa lei della campagna acquistica, a parte vendita giustissima, dell'acquisto di questo Ultelar che per di Boriello? A sto punti vendi Boriello e compra Hunter, ok? Però Boriello è un buon giocatore, abbiamo preso sto Hunter perché non è abituato al campionato italiano. Davide è sempre insomma giocatore, lei ha ragione, poi continuiamo a parlare, però Boriello è ancora fermo, ancora infortunato, reduce da una stagione in cui praticamente non ha giocato mai, adesso ancora ai box, giocatore a rischio Boriello. Sì, ok, e poi questo Oddo qua che abbiamo provato a venderlo a mezzo Europa, nessuno lo voleva, continua a giocare quando abbiamo un Abate che sicuramente più giovane, più veloce. Ma vede, Davide, Oddo è secondo me l'emblema del non lui, però la sua situazione è l'emblema dei problemi del Milan. Cioè il Milan ha tanti giocatori di età avanzata ancora sotto contratto e sono contratti onerosissimi. Dunque secondo me a prescindere poi da quali siano le idee presidenziali, a prescindere da quali siano i programmi futuri, se ci sono dei programmi futuri, se parliamo seriamente, il Milan non può cambiare pelle fino a quando avrà un monte salari di questo tipo, avrà tutti questi giocatori. Il Milan ha un portiere di riserva che guadagna 4 milioni e mezzo di euro l'anno, un secondo, terzo portiere infortunato, non so Dida che fine abbia fatto in questo momento, però è ancora sotto contratto, è un contratto pesantissimo, come lui molti altri. Quindi fino a quando il Milan non potrà liberarsi di questa zavorra rappresentata appunto da contratti in essere ancora lunghi e onerosissimi, sarà molto difficile avviare un progetto di ricostruzione. Perché comunque, onestamente, quali sono i giocatori in questo momento facilmente, parola orrenda, commercializzabili nel Milan? Potrebbe essere Pato, se riprende ad essere un giocatore, perché in questo avvio di stagione abbiamo a partire dalla stagione scorsa abbiamo assistito ad una involuzione pazzesca di Pato. Credo sia un problema di crescita, una crisi di crescita, mi auguro che per lui che sia una crisi di crescita e null'altro. Per il resto, insomma, è difficile vendere altri giocatori del Milan, Oddo compreso. Quanto a Huntelaar, ripeto, è stato un acquisto determinato, indotto dalla pressione dell'opinione pubblica in un certo momento dell'estate, in cui tutti erano lì con i riflettori puntati sul Milan, che non riusciva a comprare nessuno. Sono riusciti a prendere Huntelaar con quei 14 milioni che avevano in tasca, l'hanno fatto molto in fretta. Certo non è un investimento funzionale a questa squadra per il momento. Tempo di sport. Tra poco riprendiamo anche il discorso con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Intanto vi do una notizia sull'Inter, perché c'è stata conferenza stampa, ovviamente non con Mourinho, auto squalificato, si è già parlato Lucio, però ciò che interessa sono soprattutto le questioni di formazione, perché a Genova domani con la Sampdoria anticipo ore 18 mancheranno Motta, Montari e Snyder, dunque cambiasse Stankovic a centrocampo e poi c'è da scegliere un esterno, chissà che non tocchi a Balotelli. Prima appunto di riprendere discorsi calcistici eventualmente, andrei a fare un salto ai mondiali di ciclismo di Mendrisio. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Partirei dal mostruoso Cancellara di ieri, che hai definito in un servizio di stamattina il treno di Berna, che non arriva in ritardo ma semmai con un mostruoso anticipo sugli avversari. Molto bello l'arrivo di, oltre che emblematico, l'arrivo di Cancellara, che ha mandato saluti e baci a nonne, parenti, zii, tifosi, a tutti quanti. Mancava solo che facesse qualche inchino. Sì, mancava solo che andasse direttamente a trovare qualche parente sì, in Lucania. In realtà è il più forte in assoluto. Fabian c'è da temerlo anche per domenica, credo, perché ha una condizione esaltante a livello anche mentale, non può star che meglio di tutti perché si è già in parte saziato, ma corre sulle strade di casa e quando uno è sorretto da condizione fisica e mentale c'è da tenerlo sott'occhio, e credo che i ragazzi guidati da Franco Ballerini non lo sottovaluteranno di sicuro. D'altra parte è considerata la squadra con la S maiuscola e come tale interpreterà la corsa anche domenica. Squadra fatta, no? Pier Augusto. Guarda, questo davanti a me ho il responsabile numero uno, il CT, credo uno dei CT più vincenti, se non è il più vincente in assoluto, e alla sua undicesima rappresentazione, usando un linguaggio dello spettacolo teatrale, e Franco Ballerini, parlo di questo ragazzo perché è ancora estremamente giovane e sembra l'altro ieri che è sceso di bicicletta, e ha lo spirito quasi anche del corridore, credo che forse che sia veramente la chiave di la sua forza, che è quello di parlare ancora un linguaggio che è quello dei corridori, e lo intendono perfettamente. Lui ha vinto un oro olimpico con Paolo Bettini, si è portato a casa già 4 titoli mondiali con Cipollini, 2 volte Bettini e Alessandro Ballan, e nell'impresa assurda, folle, che se riuscirà, credo che gli faranno un monumento in qualche piazza d'Italia, dovrà decidere lui dove, di vincere per la prima volta nella storia 4 mondiali consecutivi. Poi probabilmente il rischio sarà che il prossimo anno non inviteranno più l'Italia ad un mondiale, perché diventa monotono e prevedibile. Ce l'ho qua e ti faccio fare 2 chiacchiere col CT. Franco Ballerini. Franco, buon pomeriggio. Pronto? Ciao, buon pomeriggio, grazie. Salve, buon pomeriggio a voi. Squadra fatta, CT? Sì, squadra fatta, fatte le riserve, che è stata un po' la nota più dolorosa di questa squadra, però ecco, i ragazzi adesso sono iper motivati, con la testa già domenica, per cercare di portare a casa il massimo risultato. Senti, gli svizzeri non ci sentono, gli spagnoli neanche, che corsa hai disegnato? Ma è sicuramente un percorso non facile. Noi cercheremo comunque anche di non essere un pochino la squadra, di cercare di non essere un po' proprio la squadra di riferimento. Gli spagnoli sicuramente hanno un organico estremamente forte, e abbiamo molto fieno in cascina, come diceva Pier Augusto, abbiamo 3 mondiali vinti e quindi potremo anche rischiare di perderlo per cercare poi di vincerlo, quindi credo che poi comunque la tattica viene disegnata dal percorso. Il percorso è un percorso esigente, ci sono 5.000 metri di dislivello e quindi sicuramente in finale gli ultimi 2-3 giri saranno pesantissimi, quindi ci vuole la grande condizione e poi vedrai che tutti saranno nei propri posti e cercheremo comunque di essere più forti e più veloci degli altri. Comunque arrivi soddisfatto al giorno della corsa? Sì, molto molto, mi piace molto la squadra per come è strutturata, la loro condizione devo dire che è molto buona. Abbiamo un Damiano Cunego che ha dimostrato sul campo di meritare i gradi che comunque gli vengono riconosciuti e assegnati, e poi abbiamo comunque delle alternative che sanno impensierire molto gli altri se inserite in certe fughe, quindi questo ci mette serenità, ecco. In bocca al lupo, Franco, buon lavoro. Ci sentiamo domenica. Ci sentiamo domenica con Franco Ballerini, CT della nostra nazionale. Naturalmente con Piero Augusto Stagibe, con lui anche prima, anche domani, mentre domani il CT lo lasciamo lavorare in pace. Adesso torniamo agli ascoltatori, torniamo ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Stefano da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Niente, volevo solo ricollegarmi alla campagna acquisti del Milan, facendo una considerazione rapida, poi sentivo il suo commento. Sì. Visto che c'è stato un acquisto di Huntelaar, per quello che è stato speso il Monte Ingatti, e non capisco poi alla fine perché non è stato preso un Luis Fabiano, che forse costava un pochino di più, ma aveva un ingaggio inferiore, a quel punto, visto le uniche richieste da vedere, di Leonardo... Da vedere se è un ingaggio inferiore. Così dicevano. Da vedere. Però costava che costava di più, è certo, e questo credo sia stato abbastanza determinante nella conclusione della trattativa. Prego Stefano. No, io dicevo alla fine, allora, perché visto che le reali richieste di Leonardo erano perlomeno dei laterali, perché allora non tenersi in casa un Paloschi, nessuno avrebbe gridato allo scandalo, e magari investire su due esterni, vedi Fiorentina con De Silvestri. Ma perché Stefano, perché serviva un attaccante, insomma, erano, io ripeto, questa l'acquisto di Hunter, la campagna acquisti del Milan è stata conclusa, è stata realizzata sotto pressione mediatica, tutti erano lì ad aspettare un attaccante, c'era il gioco delle tre carte, Luis Fabiano, Huntelaar piuttosto che qualcun altro, non si poteva dare. Io avrei preso Paloschi, calcisticamente sarebbe stato corretto prendere Paloschi, sarebbe stata una splendida idea riportare a casa Paloschi, così come sarebbe stata una splendida idea confermare Gourcuff, ad esempio riportare a casa Gourcuff, invece sono state seguite strategie differenti. In quel momento non era possibile, secondo me, nemmeno mediaticamente dire ok, allora il nostro attaccante, dopo aver parlato di Hunter, Luis Fabiano, non mi ricordo chi altri, il nostro attaccante sarà Paloschi, non sarebbe stato possibile. Allora è stato preso in fretta e furia Huntelaar, che a questo Milan per il momento non serve a nulla, perché Huntelaar è un giocatore anche bravo, ma ad area di rigore, che ha colpi che ha buoni colpi in acrobazia, che è bravo di testa, però va rifornito. Sì, per dire, nel Genoa Huntelaar sarebbe giocatore da 20 gol, per intenderci. In questo Genoa, con questi demoni sulle fasce, Marco Rossi da una parte, Mesto dall'altra, Sculli, gente che mette in mezzo palloni come quelli che abbiamo visto ieri sera, ecco, Huntelaar nel Genoa secondo me sarebbe giocatore da 20 gol. In questo Milan Huntelaar è un giocatore che non serve pressoché a nulla, quindi la verità è questa. Prima di Marco da Roma e Gianni dalla provincia di Lucca, vedo che c'è Del Neri in diretta in conferenza stampa, sentiamo cosa sta dicendo. Penso io il calcio è sempre stato che chi riesce a sfruttare meglio le corsie laterali o riesce a lavorarci sopra può avere delle qualità, però noi, bontà nostra, abbiamo anche possibilità di andare centralmente, insomma. No, è che la squadra di calcio è fatta per stare in campo sui 70-80 metri di larghezza, che è il campo del calcio, e quindi penso che sia noi, sia altre squadre, sia anche l'Inter, sia la Juve, sia il Genoa, sia tutte quelle squadre che giocano nel calcio di Serie A, pensano di sfruttare al meglio sia le corsie laterali che le corsie centrali, quindi dipende. Certo che noi abbiamo una vita dura, insomma, non è che sia una passeggiata a giocare contro l'Inter, però noi confidiamo sull'entusiasmo, su questa bellissima partenza, sui miei ragazzi che credono in quello che fanno, sui miei ragazzi che sanno e sono consapevoli di affrontare una squadra di grande lignaggio, però sono consapevole anche di quello che loro possono dare, quindi di questo fatto qua sono molto sereno. Poi le partite non finiscono domani con la vittoria, non finiscono sicuramente domani con una sconfitta. Questo Del Neri in diretta, conferenza stampa pre-Inter, domani alle 18 si gioca e sarà secondo me partita molto interessante. Marco Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Vorrei premettere che sono un tifoso interista, ma ieri ho visto un giocatore eccellente, Marchisio, che non conoscevo, ma sono rimasto veramente stupefatto, perché non ricorda veramente Tardelli, come diceva Caressa nel corso della telecronaca. Quindi sì, in prospettiva nazionale è una cosa che, ancorché lo dica da interista e dichiarato anti-juventino, la cosa mi rende lieto in prospettiva nazionale. Manca un pizzico di fisico forse ancora a Marchisio. Poi questo paragone con Tardelli secondo me è un po' troppo strombazzato, è giocatore anche differente se vogliamo da Tardelli, perché insomma, ha maggiore velocità, maggiore tecnica secondo me, maggiore capacità di dribbling, minori doti di interditore, di incontrista, ma poi su questi paragoni epocali io sono sempre un po' scettico. Prego Marco. E la seconda cosa che volevo dire invece è sull'Inter, che ha un gioco quest'anno che mi soddisfa molto di più, perché vedo tra l'altro un pressing fatto soprattutto da Eto'o, che l'ho visto difendere addirittura sulla linea di difesa dell'Inter, che sì, rende la squadra molto più compatta, fa molto più pressing, molto più corta, con delle capacità realizzative impressionanti, perché insomma in due con Milito, che è eccezionale, non lo scopro certo io, 8 gol in 4 giornate, insomma mi fanno ben sperare, soprattutto in prospettiva del gioco, perché rispetto l'anno scorso vedo una squadra che ragiona in modo diverso e è molto più equilibrata a mio modo di vedere. Attendo in linea la sua risposta. Sì, no Marco, c'è poco da dire, ma a tratti, perché l'Inter ha giocato molto bene con il Napoli l'altra sera, partita molto strana perché subito indirizzata, quando parti 2-0, insomma, in partite di questo tipo è già mezza andata, no? Già mezza vinta. Poi ha giocato sul velluto molto bene, ripeto, però l'Inter insomma è ancora in fase di costruzione, secondo me. Vedremo, domani a Genova sarà un esame importante, è chiaro che sta cambiando pelle, è chiaro che ha due attaccanti meravigliosi, ma non li stiamo scoprendo, io credo, in questo avvio di campionato, perché le caratteristiche di Eto'o sono a tutto il mondo ben note, quelle di Milito le conosciamo bene. In questo momento non c'è al mondo, credo, prima punta più forte di Milito, se non Fernando Torres. Questa è la mia opinione. A tempo di sport. Soluzione al Milan è Cafu e Sergio sulle fasce, scrive Marco. Ma quando torna Palaspicchi? L'ho detto Marco, Palaspicchi torna venerdì 9 ottobre, vigilia del campionato di Serie A. Gianni, provincia di Lucca, buongiorno. Sì, buonasera. Dica. Una gentilezza, guardi, io volevo fare una considerazione e una provocazione alla fine. Io ieri sera ero seduto nei distinti dei tifosi del Genoa vicino alla Nord. Sì. Devo fare un plauso ai tifosi genoani, perché chiaramente nelle tre azioni discusse, che io ho visto benissimo, e tra l'altro insomma potevo dire già in diretta che il gol di Iaquinta, il primo, era buonissimo, però devo dire anche facendo un plauso complimenti, ai tifosi genoani. Complimenti Gianni, perché io non l'ho ancora capito adesso, dopo che sono due giorni che lo vedo la movimento. No, in realtà è molto difficile da cogliere, perché a me, a dire la verità, velocità normale sembrava fuori gioco, poi sì, però diciamo tra le tre azioni, quelle che sicuramente era irregolare era il secondo gol. Sì, poi il primo si poteva giudicare, ma non ci piove, certo. Però quello che volevo dire era il plauso ai tifosi genoani, perché devo dire che, essendo ormai l'unico juventino insieme a un'altra persona, e al gol del pareggio della Juventus, al che io ho esultato, nessuno mi ha detto niente. Devo dire che alla fine della partita tutti quanti intorno hanno sicuramente detto che il pareggio era un risultato giusto, e quindi credo che sia questo il valore aggiunto del pubblico genuano e dei tifosi genuani. Siccome spesso si parla spesso che andare negli stadi è sempre negativo, è sempre pericoloso, devo dire che i tifosi genuani si sono comportati in un modo eccezionale. No, ma guardi Gianni, non si sono comportati in un modo eccezionale, la distorsione è questa, perché quando andiamo allo stadio stiamo a sorprenderci della normalità, si sono comportati come ci si dovrebbe comportare. Purtroppo appunto la distorsione sta nel sorprendersi della normalità, perché se uno va allo stadio, segna la squadra avversaria e questo alza la mano, normalmente magari rischia anche un ceffone. Quindi quando smetteremo di sorprenderci della normalità, allora sarà già un mondo, sarà già un ambiente un po' migliore quello del calcio. Grazie comunque Gianni, io saluto invece Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato, e tutti quanti gli ascoltatori naturalmente. Cosa ne pensi? Ci sorprendiamo della normalità quando andiamo allo stadio? Cioè vado allo stadio, tengo per l'altra squadra, segno, esulto e rischio di prendere. No, hai ragione, nel senso che questa dovrebbe condizionare, essere la condizione basilare per cui si vada ad assistere a uno spettacolo sportivo. Ma il condizionale è giustificato dal fatto che non sempre questa cosa avviene, quindi ogni tanto, pur senza esagerare, credo valga la pena anche ricordare che si può fare il tifo tranquillamente, si dovrebbe farlo, non si riesce sempre, dobbiamo mirare a quello, ma non è esattamente la situazione in cui siamo. Senti Andrea, oggi 17:30 via al agli europei 17:30 per l'Italia, poi in realtà sono già iniziati in Polonia, via agli europei, come nel ciclismo, anche qui difendiamo un titolo con le ragazze. Esatto, e ci attacchiamo a queste ragazze, ci attacchiamo non solo come tifosi di pallavolo, ci attacchiamo anche come tifosi degli sport di squadra in Italia, visto che quest'anno non è stato esattamente l'anno più esaltante per noi altri. Quindi insomma un girone abbastanza complicato con Francia, Turchia e Germania. Oggi partiamo con la Germania di Giovanni Guidetti. Tra l'altro Guidetti e Barbolini sono nati nello stesso quartiere di Modena, sono diversi come età, ma sono veramente, questo è sintomatico di come l'Italia si sia mossa in giro per il mondo con gli allenatori. Quindi partita da prendere con le molle, anche perché la Germania l'ho vista a Tokyo nelle finali di World Grand Prix, è arrivata terza giocando una buonissima pallavolo. Io credo che l'Italia nostra sia più forte, però se i pronostici sono fatti per essere smentiti, non vorremmo davvero che accadesse ancora. Quindi un'Italia che parte sicuramente come favorita. Barbolini accetta di buon grado il ruolo di favorito. Tantissime amichevoli quest'anno, tantissime, 27, quindi insomma veramente un'estate piuttosto intensa. Squadra motivata, esperta, con un sestetto davvero invidiabile: Lo Bianco a servizio, Aghero come opposto, poi abbiamo Piccinini e Del Core, Barazza, Gioli e Cardullo, che Barbolini stesso definisce il miglior libero del mondo. È una squadra che è forte, ed è forte anche la panchina. Quindi insomma qui ci siamo tranquilli e speriamo che poi le cose vadano come ci aspettiamo. Ma soprattutto sai cos'è, Andrea? Mi sembra una squadra matura per giocare sotto pressione, con il favore del pronostico. Me lo auguro. Io ti dico la verità, qualche segnale positivo ce l'ho sulla tranquillità con la quale hanno lavorato, con l'intensità sulla quale hanno lavorato, sul fatto che Barbolini mi ha sempre sorpreso positivamente, con l'unica eccezione delle Olimpiadi dell'anno scorso, in cui per quel blackout contro gli Stati Uniti si è persa una grande occasione. Quindi io sono veramente molto convinto che si possa fare benissimo, lo spero, anche perché sarebbe davvero una grande opportunità per la pallavolo e per tornare ad avere qualche bellissimo risultato. Possiamo dividere anche, se hai un attimo di istante, in tre categorie le squadre. Nel terzo livello mettiamo Turchia, Germania e Azerbaijan, che sono squadre di cui non ho con davvero un po' di timore. La Polonia, perché è una squadra che deve ancora definirsi bene, potrebbe fare il salto di qualità, non l'ha ancora fatto, però Polonia tra l'altro ha vinto anche il maschile, non dimentichiamola, è un paese con una tradizione pallavolistica straordinaria. In prima fascia con l'Italia ci mettiamo invece la Russia, l'Olanda e la Serbia, anche qui squadre un po' diverse, perché Serbia e Olanda sono le stesse di qualche anno fa. La Russia, che continua ad essere una squadra fisicamente dotata, è cambiata molto, giocatrici giovani però molto forte, e potrà ovviamente essere una delle grandi avversarie dell'Italia. Andrea, invece, brutto momento per il movimento maschile, Il campionato che parte a colpi di carta bollata è stata di oggi la decisione del TAR del Lazio, attesa, che ha confermato l'esclusione dalla Serie A di Forlì. Momentaccio. Momentaccio lo è, perché quando le carte legali entrano nei calendari è sempre un momento piuttosto triste, perché evidentemente c'era qualcosa dietro di non perfettamente chiaro che viene fuori. Lo è perché in questo momento tutto ci vorrebbe, forché qualche altro problema legato alla pallavolo non giocata. Da pallavolista innamorato di questo sport dico anche che ho visto la Supercoppa domenica scorsa, c'era un bel pubblico, una bella partita, giocata piuttosto bene a inizio campionato, quindi alla fine la pallavolo, quella nel rettangolo di gioco, è una bella pallavolo. Ovviamente non si può dimenticare che esiste la necessità anche nella pallavolo di provare a riorganizzare in modo un po' più stabile e sostenibile quelle che sono le questioni di natura regolamentare, perché talvolta si è un po' forzato quella che è la disponibilità di vari regolamenti per fare qualcosa che non è esattamente l'interesse globale. Questa mi pare essere la situazione. Naturalmente non credo la pallavolo sia l'unico sport che deve fare i conti anche con questi aspetti, ma certamente noi siamo quelli che in questi giorni hanno a che fare con i ricorsi al TAR. Grazie Andrea, ci sentiamo presto. Ciao, buona giornata. Grazie ad Andrea Zorzi, con cui naturalmente torneremo a commentare il cammino dell'Azzurra, che mi auguro, che credo sarà molto molto lungo. Noi ci fermiamo qui con lo sport, torniamo naturalmente domani pomeriggio dalle 17 alle 18, domenica ci troviamo insieme dalle 17 alle 19, tra l'altro oltre al calcio avremo l'arrivo dei mondiali di ciclismo, domenica sera dalle 22 alle 23, questi gli appuntamenti già fissati, ci sentiamo domani. Grazie a Flavio Suardi per il lavoro in redazione, a Carmelo Lauricelli in regia, buona giornata.